L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati dopo la pausa estiva. L'altro pianeta riparte oggi e speriamo per una lunga stagione insieme. Ripartiamo con una bella notizia e anche un'ottima meta di fine estate per chi avrà la possibilità di muoversi. Sulle coste del Cilento, infatti, è stata siglata in luglio, tra Lega Ambiente e Mare Blu, la partnership che ha permesso di realizzare un nuovo allestimento al Museo Vivo del Mare e della Dieta Mediterranea che si apre in questo periodo. Il museo si trova nella frazione Pioppi di Pollica, in provincia di Salerno, che è un comune che ricordiamo per l'attivismo di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore cosiddetto, ucciso dalla malavita organizzata nel 2010. Questo museo è gestito dal 2013 da Lega Ambiente ed è uno dei più frequentati della Campania. È ospitato presso il Palazzo Vinci Prova, che è tra l'altro un edificio di interesse storico che è sotto la salvaguardia monumentale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Nell'intervista di Daniela Abruzzo, Rossella Muroni, direttrice generale di Lega Ambiente, ci presenta tanto l'idea generale che anima la gestione di Lega Ambiente di questo museo, quanto la nuova installazione. L'idea appunto è, nel solco della tradizione anche dell'insegnamento di Angelo Vassallo, valorizzare questo territorio anche in funzione formativa. L'idea è di trasmettere la cultura del mare, come è già stato fatto con il museo in questi anni e come la Lega Ambiente sta provando a fare in questi ultimi mesi, anche grazie al lavoro delle nostre operatrici, e poi allargare questo lavoro appunto al tema della dieta mediterranea, sapendo che l'anno prossimo è l'anno dell'Expo dedicato all'alimentazione. Ci sembra particolarmente importante realizzare proprio in un territorio straordinario, ma insomma periferico come questo, un polo culturale di trasmissione dei saperi e anche dei sapori della dieta mediterranea. È fondamentale che in questo caso ci sia una grande azienda come Mare Blu, che sicuramente ha, come dire, un argomento in merito, e però anche un'azienda che noi stiamo accompagnando verso una sostenibilità ambientale che è fondamentale per le aziende. Dall'altro lato però è molto importante che questo avvenga in un territorio come quello della Campania, dove in realtà il discorso dell'ambiente in questi anni è stato, come dire, un po' ambiguo, un po' particolare. Episodi come quelli della terra dei fuochi o della crisi dell'immondizia del 2008. Certo. È fondamentale, come dire, senza trascurare e banalizzare problemi ambientali che pure affliggono questa regione. La Lega Ambiente è stata la prima a denunciare nel 94 la vicenda della terra dei fuochi. È fondamentale però raccontare anche l'altra Campania, raccontare che in questo territorio ci sono moltissime potenzialità, che proprio da queste potenzialità dobbiamo partire per costruire un'economia di basata sicuramente sulla sostenibilità ambientale, ma soprattutto e innanzitutto sulla legalità. Qui c'è innanzitutto un grande problema di legalità: non mancano né le competenze, né le tradizioni, né la cultura, manca il controllo del territorio da parte dello Stato. Fino a quando questo non avverrà, e quindi ad esempio verranno introdotti reati ambientali nel codice penale che rafforzi anche un sistema normativo a favore della legalità, regioni come queste saranno sicuramente penalizzate. Allora, l'idea di realizzare questi progetti non è per risolvere il problema in sé naturalmente della Campania, ma per anche dare coraggio e speranza ai tanti giovani che in questo momento tendono naturalmente a lasciare queste terre. In un posto comunque come questo, che comunque magari è più periferico rispetto ad altri posti, voluto da un sindaco che insomma tristemente sappiamo che insomma non c'è più, è un presidio di legalità alla fine. Sì, è un presidio di legalità e soprattutto un presidio di speranza. In questo paese la rabbia è un terreno fortemente presidiato. Noi abbiamo bisogno di speranza, non la speranza quella, come dire, dei sogni, la speranza delle cose concrete e dei luoghi che dimostrino che anche in questi territori l'Italia ce la può fare e che anche qui ci sono persone, competenze, energie, fantasie assolutamente positive a servizio del paese. Allora, sostenere l'amministrazione di Pisani, attuale il sindaco del comune di Pollica, vuol dire riconoscere il lavoro di Angelo Vassallo, ma anche riconoscere il fatto che qui c'è innanzitutto una comunità coerente e coesa che vive nel segno anche nell'insegnamento di Angelo Vassallo. Che cosa cambia concretamente da oggi in questo museo? Che cosa si aggiunge? Che cosa vedremo? Beh, dunque, noi adesso ci stiamo attrezzando per fare un'informatizzazione del museo e collegarlo al nostro centro sul Gargano per il recupero delle tartarughe. C'è una virtualizzazione della nostra operatività e anche la voglia di mettere in collegamento territori diversi, quindi il centro per il recupero delle tartarughe verrà collegato, che è in provincia appunto di Foggia, verrà collegato con il museo di Pioppi, e le scolaresche in visita in entrambi i centri potranno comunicare e scambiarsi esperienze anche solo guardando quello che succede nell'altro luogo. È anche un modo per far vivere pubblicamente, essere trasparenti rispetto a quanto si sta facendo sul territorio con risorse di un'azienda privata. Anche perché questo posto diventerà e diventa sempre di più un posto per l'infanzia, no? Aperto a laboratori per insegnare fin da bambini che cos'è, sì. Cos'è l'ambiente. Sì, sì, infatti una delle cose su cui noi abbiamo puntato molto è la formazione, la presenza in loco di operatrici della Lega Ambiente formata per fare educazione ambientale e per lavorare con i ragazzi. Noi siamo convinti che se abbiamo la possibilità di cambiare le cose è motivando le giovani generazioni a pretendere un modello di sviluppo diverso. Allora, prenderli da piccoli e insegnarli che c'è un modo diverso, che non è quello del consumismo sfrenato o della crescita illimitata, ma invece è quello della sostenibilità, della qualità e della cultura, su cui si può vivere in maniera ottima, felice, e però non limitando poi il futuro del pianeta e in questo caso di un intero territorio. Che cosa direbbe probabilmente Angelo Vassallo se oggi fosse qui? Si realizza un po' un suo sogno? Io credo di sì, io penso che noi di Lega Ambiente in questi anni abbiamo agito su questi temi nel segno e nell'insegnamento di Angelo. Credo che immediatamente ci racconterebbe qual è la nuova idea che ha in mente, perché era un sindaco sempre attivo e che poneva sempre una sfida di fronte, quindi sono sicura che dopo 2 minuti di soddisfazione sarebbe già lì a pensare che cosa possiamo fare d'altro. L'altro pianeta. Ancora ben ritrovati, stiamo parlando, ricordo, della nuova sezione del Museo del Mare nella frazione Pioppi di Pollica, in provincia di Salerno, che è stata inaugurata in luglio, ma che è aperta al pubblico da questo mese di settembre. In che consiste? In una installazione multimediale che consentirà di vedere via webcam le tartarughe marine del centro di recupero Lega Ambiente di Manfredonia, quindi in provincia di Foggia, osservando la loro vita e il lavoro dei volontari del centro che si trova nel Parco Nazionale del Gargano. Ma al di là di questa novità, cosa c'è da vedere nel Museo del Mare e della Dieta Mediterranea di Pioppi? Daniela Brunzo l'ha chiesto al responsabile del museo, Valerio Calabrese. Questo museo si caratterizza perché non mostra animali esotici o ambienti lontani da noi, ma piuttosto tutto quello che accade nel mare di fronte al museo, essendo posizionato su una spiaggia. Quindi ogni vasca rappresenta un habitat tipico della costa cilentana, costa tirrenica. Che habitat abbiamo? Abbiamo l'habitat della scogliera, del flish, che è l'habitat tipico del Cilento, di queste scogliere a strapiombo nel mare. Abbiamo l'ambiente sabbioso, dove si nascondono i pesci e gli organismi più comuni, dal riccio alla stella, le sogliole, eccetera. Abbiamo la vasca dei crostacei, abbiamo poi delle vasche dedicate a singole specie animali che hanno necessariamente bisogno di stare da soli, come la murena o come il polpo. Abbiamo 2 vasche di profondità per i pesci che abitano gli abissi marini, quelli più vicini a noi chiaramente, quindi dove troviamo delle cernie, dei pesci balestra, delle orate, eccetera. Quindi abbiamo una certa varietà, abbiamo una vasca dedicata alla posidonia oceanica di cui è ricco il litorale, che è uno strumento fondamentale anche contro l'erosione costiera. Quindi cerchiamo di rappresentare per i visitatori e per soprattutto i tanti bambini che durante l'anno frequentano il museo quello che rappresenta l'habitat costiero della zona. E grazie al progetto che parte oggi la presenza dei bambini aumenterà in questo museo? Sì, ce lo auguriamo, sicuramente aumenterà perché andiamo ad allestire una nuova sezione multimediale dedicata alle tartarughe marine che qui nel Cilento spesso nidificano, spesso scelgono queste spiagge per nidificare e quindi hanno la popolazione locale ha un legame con questo animale fantastico e con il collegamento web che installeremo con Manfredonia, quindi con le webcam piazzate nelle vasche di Manfredonia del centro Tartanet, riusciremo a proporre anche ai visitatori di Pioppi le cose che avvengono lì e far vedere dal vero come vivono questi animali. Intanto però il Palazzo Vinciprova, che ospita il museo, non ospita solo il Museo del Mare, ma ospita l'Ecomuseo della Dieta Mediterranea, di cui il Museo del Mare è parte, e questo Ecomuseo si diramerà nel progetto che stiamo mettendo in piedi sul territorio attraverso una rete di sentieri, attraverso appunto una sala espositiva e laboratoriale qui al museo, attraverso dei corsi, attraverso degli orti che stamattina andiamo a visitare, a inaugurare qui sul lungomare di Pioppi legati alla dieta mediterranea, perché qui è nata, questa è la patria della dieta mediterranea, perché qui ha studiato Ansel Keys i suoi studi appunto sui benefici sulla salute umana di questo regime alimentare, quindi è stile di vita direi, quindi diciamo un contesto museale, un unicum che diciamo fonda soprattutto su questo tema la sua valenza culturale. Orti che tra l'altro penso siano anche orti urbani, sì, ai quali l'Ecambiente si è dedicato in questi anni. Sono una parte del nostro discorso sull'agricoltura e sugli orti in Regione Campania, che è sviluppato ormai da anni, che appunto rappresenta un valore aggiunto secondo noi sia per il mantenimento della cultura locale, ma anche per un aspetto turistico che non è secondario, anzi. E questi orti che sono appunto ubicati sul lungomare di Pioppi e gestiti da anziani del paese entreranno in rete col museo, saranno visitabili da parte dei turisti, sarà loro spiegato le piante che vivono in quell'orto e appunto tutti questi orti saranno dedicati solo ed esclusivamente a specie della dieta mediterranea. Quindi un museo itinerante che comunque rende Pioppi diversa dagli altri comuni, insomma dalle altre cittadine che troviamo qua in Cilento. Sì, diciamo che Pioppi è forse il punto più alto del discorso della dieta mediterranea, proprio perché qui ha vissuto e sulle persone di Pioppi ha studiato Ansel Keys, e quindi noi qui al museo abbiamo la biblioteca personale di Ansel Keys, vicino il museo c'è ancora la sua casa che presto diventerà casa museo, sarà visitabile anche dai turisti, quindi è Pioppi un po' la patria, il motore propulsore di però un discorso che si amplia chiaramente a tutto il Cilento. Abbiamo già detto che la nuova installazione al Museo del Mare, quella per osservare le tartarughe marine, è stata possibile grazie alla partnership con Mare Blu. Un legame, quello tra Legambiente e Mare Blu, che è nato 3 anni fa per accompagnare l'azienda in un processo di riduzione del suo impatto ambientale e che poi si è evoluto in progetti come quello del Museo del Mare, dice Giuseppe Bellanova, Trade Marketing Manager di Mare Blu. È la terza tappa, diciamo, di un percorso che stiamo facendo insieme già da 3 anni, che è appunto iniziato 3 anni fa e già ci ha permesso comunque di tradurre il nostro impegno in sostenibilità in dei progetti concreti calati sul territorio, e in particolare uno di questi a spiagge e fondali puliti, dove ci hanno dato la possibilità di essere un supporto in questa che è una delle loro principali campagne sul territorio italiano, e poi anche di supporto al centro di recupero delle tartarughe marine di Manfredonia, che sono diciamo i due principali progetti diciamo con cui Mare Blu ha collaborato fino ad oggi con Legambiente. A questo si aggiunge il Museo del Mare, che diciamo diventa il terzo step, diciamo il passaggio successivo e naturale di questa evoluzione, di questa collaborazione con Legambiente. Quindi è come una sorta di consolidamento? Sì, è un consolidamento di una partnership, e anche diciamo sicuramente Legambiente diciamo oggi è il partner in Italia più autorevole e anche più importante, nel senso per poterci guidare in questo percorso di sostenibilità che Mare Blu da più anni sta facendo, anche perché nel senso il fatto di essere sostenibile quindi già gli permette comunque di essere anche trasparente con il consumatore e avere quindi una tracciabilità a 360 gradi di tutti i suoi prodotti, e quindi nel senso di poter essere trasparente e guidare il consumatore su delle scelte consapevoli di acquisto. Il messaggio conclusivo di questa puntata lo vogliamo affidare al sindaco attuale di Pollica, Stefano Pisani, che parlando con Daniela Abruzzo ha ricordato sì Angelo Vassallo e non poteva fare altrimenti, ma lo ha saputo fare guardando al futuro e non solo al passato. Ah, per me Angelo era soprattutto Angelo, quindi un amico, una persona che ho sempre stimato moltissimo, che soprattutto è stato capace nello spazio breve di 5 anni di amministrazione insieme, mi ha fatto veramente comprendere quanto sia bello ed importante poter dare una mano al territorio in cui vivi e farlo dal posto più bello, cioè quello da amministratore comunale, dove effettivamente puoi fare una cosa che spesso la politica non ti fa fare, puoi veramente decidere se far bene al tuo territorio. Lui ci ha insegnato come fare bene le cose, come farle per far crescere il territorio in cui viviamo. Penso che molto più semplicemente se ciascuno si preoccupasse non tanto di quello che accade domani mattina, ma di quello che dovrebbe accadere tra qualche mese, qualche anno, qualche generazione, forse riesce ad avere la dimensione di quello che Angelo è stato per me, nel senso che mi ha dato la possibilità di comprendere che non era importante quello che facevamo oggi, ma quello che sarebbe stato domani. E lui in realtà fu preso di mira anche perché era un convinto sostenitore dell'ambientalismo e quindi questa giornata è molto importante anche in suo nome. Assolutamente sì, noi abbiamo fatto tante cose sulla scorta delle visioni di Angelo. Lui era più che un ambientalista convinto, Angelo era profondamente convinto che l'ambiente fosse l'unica soluzione per stare bene e far crescere in generale, non solo questo territorio, ma in generale questo poteva essere un modello di sviluppo del nostro paese. E lo ha fatto mettendo insieme dei tasselli concreti come il Museo del Mare e della Dieta Mediterranea qui a Pioppi, mettendo insieme il Centro Studi Dieta Mediterranea a Pollica, creando un sistema per raccontare il territorio, le sue caratteristiche, le sue peculiarità. Adesso sta a noi, a tutti quelli che sono capaci di dare una mano, che non è mai abbastanza, avere la capacità di costruire e far crescere ancora questo modo di vivere il territorio. Che cosa rappresenta per lei il mare? E che cosa rappresenta questo museo che è sul mare? Il mare e questo museo rappresentano innanzitutto la stessa cosa, rappresentano l'opportunità che ha questo territorio, che hanno le giovani generazioni. Spesso quando parlo con i miei figli, bimbi molto piccoli, 3 anni e 4 anni e mezzo, parlo con loro raccontandogli il mare, la possibilità di vivere il mare come il loro futuro. A loro piace molto, che sostanzialmente vedono il mare come un gioco. Io spero che il futuro delle giovani generazioni sia molto semplice, passando attraverso la capacità delle attuali generazioni di custodire in generale l'ambiente, ma soprattutto il mare, perché quando guarda il mare ti dà, a me, da serenità. La serenità è da veramente la carica per fare tante tante altre cose. Poi se lo vivi la mattina presto, svegliandoti e guardando il mare, ti dà ancora un bel messaggio in più, però quello bisogna soltanto provarlo, insomma non si può provare a raccontarlo. Per questa puntata dell'Altro Pianeta è tutto. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto. Vi ricordo, per scriverci, l'altropianeta@radio24.it. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora.